Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Tu che stai facendo, fratello? Niente, ammazzo il tempo. Ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Voi preferite dire profughi a sbaffo, a scrocco, non ho sentito come li chiamate. E dite che noi siamo andati a prenderli in mare. Sì, è vero, noi siamo andati a prenderli in mare. Perché quando c'è una donna e un uomo che rischia di affogare, noi stiamo dalla parte della dignità. Chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ma il cielo è sempre più blu. Del resto, un anno fa, in questo momento, in questo periodo, i talk show e anche questo Parlamento, guardate gli atti, erano pieni di previsioni catastrofiche e catastrofiste. Dicevano che nel Nord-Est, per colpa di questo governo, ci sarebbe stata la peggiore stagione turistica. È stata la migliore stagione turistica degli ultimi 20 anni. Alla faccia di quelli che giocano sulla paura. Interiori, chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi su. Chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende assai poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro. Na, na, na, na, na, na, na, na, vi chiediamo, siete disponibili a scrivere con noi una legge sui partiti dove la trasparenza sia un valore, perché il vostro movimento è la quintessenza dell'opacità, è un monumento al nepotismo, nel senso tecnico del termine. Leggo lo statuto del Movimento 5 Stelle a 4 firme. Beppe Grillo, il commercialista di Grillo, Gianroberto Casaleggio e il nipote di Grillo, il nipotismo applicato al movimento politico. Chi ha l'antifunto, chi ha fatto il quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto. E niente, Renzi è così, Renzi è all'angolo, Renzi attacca, Renzi è in difesa, Renzi parte con il contropiedone. La ripartenza di Arrigo Sacchi, ve lo ricordate, il grande, la rig, le ripartenze. Chi odia i terrori, chi canta bene. Quando sei all'angolo, come direbbe il nostro, attaccare! Non è che volevo fare l'associazione Renzi-Berlusconi. D'altronde anche Renzi l'ha detto: non attacchiamo i giudici, mi raccomando, io non sono come Berlusconi, anche se qualcuno vorrebbe farlo credere. Ieri però si è presentato un'ora al mattino a RTL. Poi alla Camera, da dove abbiamo preso questi stralci. Finito questo, ha fatto un'ora e mezza di Matteo risponde. E ritroverò in tutti quegli occhi la stessa vita che avevi negli Matteo. Occhi rispondi, dove sei, con chi vai, chi si prende. Matteo risponde. La mia voglia di te rispondi, io non sono, non lo so. Matteo risponde. Se ho già perso anche te, rispondi. Un'ora e mezza ieri è durata. Non c'era De Luca insieme a lui. Babbarie. Babbarie. Queste sono babbarie, diciamo sinceramente. La prima una B solo, la seconda con due B e mezzo. Babbarie. E quindi un'ora al mattino, un'ora alla Camera, un'ora e mezza di risponde. Insomma, all'attacco, Renzi all'attacco. Attaccare! Come noi, questa è 24 mattino. Il migliore oggi è Luciano da Udine che ci scrive 24 mattino. Pane, burro e insomma colazione 24 mattino. Grande, grande! Ci saluta da Palermo Eugenio e ci chiede che fine ha fatto Forchielli, torna in America, ma presto torna in Italia e sarà da noi. Un saluto dal Cairo, Giacomo dal Cairo. Uè. Ciao Giacomo, ci ascolta dal Cairo in questo momento, cioè ti rendi conto? Cioè ti devi sorbire Vincino dal Cairo, è una roba pazzesca. Vincino, buongiorno. Buongiorno. Ti ascoltano anche in Egitto, stai attento. Giacomo è lì dal Cairo che ci scrive e dice sono qua. Ma mio padre era di Cairo. Tuo padre? Sì, Cairo Montenotte però, provincia di Savona. No, no, questo è il Cairo Egitto, sai quello in Egitto. Quello piccolo. Ma quello piccolino, sì, quello minore. Allora quello c'è minore. Vincino, fondatore del comitato del no al foglio. Sapete che al foglio sono tutti schierati per il patto del Nazareno, per Renzusconi. Sono tutti schierati, adesso hanno fondato il comitato. Sì, sì, sì al referendum e Vincino dal di dentro, li corroderà dal di dentro, eh? È come sempre, come dire, no? Sì. Cioè sarai la gramigna al foglio, fai la. Ma no, ma guarda che poi se vai a votare metà votano per il nulla, non è che Fanno finta. Assolutamente. Fanno finta al foglio fanno finta di essere per il sì. Ma devo dire che tu prima dicevi sì. Renzi all'attacco. Attaccato. Renzi è disperato. È disperato. In genere fa così. Quando è disperato attacca in una maniera terribile. Vabbè, insomma, comunque Vincino, insieme a te, una che ieri ha twittato: domattina mi sveglierò alle 6:30 con Alino Milan. Che insomma è tanta roba messa così su un tweet. Luisella Costa Magna, buongiorno. Buongiorno. Ci sono risvegli peggiori, come dire. Dico di sì. Certo che ci sono risvegli peggiori. Pensa se mi devo svegliare alle 6:30 con Vincino. Senti come sono tonica a collegarmi con te, figurati. Esatto, ti è scemato l'umore subito. Insomma. No. Fai finta di essere felice di essere qua. Sono felicissima, sono entusiasta. Entusiasta. Fondatrice del comitato del no mondiale. Immagino, Luisella Costamagna, dai, apriamo il Parlamento, dai, fai subito, siccome Renzi adesso attacca, attacca anche tu, dai Luisella, è il tuo momento, dai, hai un minuto di tutto quello che vuoi contro Renzi e il PD. Io sono una moderata, sì? Sono una buonista, sì? Mi disegnano aggressiva, ma non lo sono affatto. Non lo sei affatto. Non fondo nessun comitato, nel mio piccolo dico no a questa legge orrenda, a questa riforma del Senato orrenda e spero che gli italiani si diano una svegliata e anche loro votino no. È ad ottobre, cioè tu sei di quelle che dice guardate che questo sindaco di Lodi avrebbe potuto essere al Senato, per dire, al nuovo Senato renziano. Non è questione di dirle, è un fatto gravissimo, non solo il sindaco di Lodi, il consigliere regionale, il presidente del PD della Campania indagato per concorso esterno in un'associazione mafiosa, cioè il nuovo Senato sarà composto proprio da consiglieri regionali e da sindaci che potrebbero, visto che io sono come noto una garantista, potrebbero essere come loro, ma godrebbero dell'immunità parlamentare. Questo non si è bene capito in realtà, cioè si dice se il reato è commesso in qualità di consigliere regionale non dovrebbero godere dell'immunità parlamentare, se il reato è contestato. Sì, ma tutte le perquisizioni, intercettazioni dovranno avere l'autorizzazione della Camera di appartenenza, quindi saranno all'interno del Senato. Non si capisce perché, se è così, perché hanno dovuto dargli l'immunità parlamentare, se rientra solo nel loro ruolo di senatori. Vediamo, dire. È questo Vincino, per esempio, uno degli argomenti che ti spinge a dire no? Oppure perché hai fondato? No, non è questo. Questo non te ne allora, fai. Io ho un no chiaro su questa legge elettorale, proposta elettorale dell'Italicum, che è un errore gravissimo, è terribile. No? Io sono proprio un proporzionalista puro, a me piaceva, come ho votato nei primi 20 anni della, come dire, come ho votato sino agli anni 90, quando c'erano le quattro preferenze. Ah beh, tu no, guardi era... ti piace il passato. No, non è che mi piace il passato, a me mi piace il fatto che tra i tre, quattro, tra le due persone che sceglievo dentro una lista, magari c'era uno che, come dire, contro la burocrazia del suo partito, magari c'era uno interessante, carino, che arrivava alla Camera, e sì, alla Camera, come dire... i deputati erano molto più liberi di oggi. No, alla Camera c'era il peones, quel deputato che riusciva, che votava contro l'indicazione del suo partito, non veniva espulso. Non ti piace quindi la riforma elettorale? Non mi piace la riforma elettorale, assolutamente. Ma poi invece la riforma del Senato, la vedo brutta e confusa. Esattamente, per dire, questa cosa qua, ancora non sappiamo come saranno scelti i consiglieri regionali, perché ancora è indeterminato. Non è, ci devono fare ancora una legge. Sì. Ecco. È confusa, questo è il punto. Non faranno mai. Però voglio dire, saranno consiglieri regionali e sindaci. Se uno voleva ridurre i costi del Senato, bastava tagliare le indennità dei parlamentari. È un'immensa bufala che venga abolito il Senato. Verrà creata un'altra Camera che rallenterà i tempi, non avrà nessun... Abolito no, perché sarà un Senato certamente non come quello che conosciamo adesso, ecco, non sarà eletto, sì, sarà fatto da consigliere regionale. Tanto valeva abolirlo oppure tagliare le indennità. Però magari... guarda, rasserenati così, Luisella, sei bellissima, ti amo. Matteo, da Mantova. Così, Matteo. Gli uomini che ti seguono. Vabbè, ma insomma, dai, Matteo da Mantova, spero che sua moglie non sia all'ascolto. Matteo, un altro Matteo, vedi che sono amata. Matteo, rispondi. Ma perché Matteo è disperato? Vincino, cos'è sta storia? Perché sarebbe disperato per te? Ma lo vedi, cioè, se tu seguivi... Ma cos'è il taglio di capelli alla Fonzi che ti dà questa no, idea? No, proprio il suo comportamento di ieri alla Camera è un comportamento quasi disperato. Allora lui doveva soltanto rispondere a delle interrogazioni. Ha risposto un'ora e mezza, Matteo risponde. Alla Camera, che poi si prende il tempo di fuori dalle interrogazioni di mettere e dire una cosa contro ognuno degli oppositori, così fuori, extra, no? Sì. Cioè in un momento in cui era preciso dovrebbe limitarsi a fare... ci sono dei regolamenti ma un anarchico come te come si fa a appellare ai regolamenti quando ti fa comodo? Tu sei un anarchico, però c'è il regolamento della Camera, comma 2, prima mattina, come dire, mi vuoi confondere, vuoi mettere in conflitto di interessi con la mia... Io amo il conflitto di interessi. Quello che manca in questo momento, qua, un è bel il conflitto di interessi. Assolutamente. Luisella, che bei tempi quando c'era Berlusconi con il conflitto di interessi. Aspetta, allora, se io fossi Renzi, io per dire al Finmeccanica metterei uno il più acceso ambientalista, no? Il più acceso ambientalista lo metterei là. Cioè in ogni situazione in cui io potrei, no, metterei uno in contrasto. Però scusate, aspetta, arriva il messaggio più bello del mondo. Più bello del mondo. Ma Luisella Costamagna che ride, ma ci dice quando prende di vitalizio a spese nostre? È bellissimo. Tu sei una vitaliziata, onorevole Costamagna. Né il vitalizio né probabilmente avrò la pensione, attendo come se fosse una cartella di Equitalia. Senatrice Costamagna, non menta, lei ha il vitalizio, lei ha spese nostre. Nulla. Ha un'auto blu. No, una bici blu, un motorino blu. Neanche blu, neanche è nero. No. Manco quello. Comunque Renzi sta in difficoltà allucinante. Voglio dire, sta lì adesso attaccare per opacità il Movimento 5 Stelle, il PD, la prossima direzione la farà nell'ora d'aria praticamente. Eccola a porta di indagati, arrestati, condannati. Tra l'altro sarà lunedì, ne ha convocata una lunedì, dicendo, dicono i giornali, il Corriere della Sera, bisogna tirare su chi è un po' mogio nel partito, ma è mogio, ma è convocato subito la direzione, no? Bisogna... Io l'avevo anche scritto, lui appunto anche questa cosa, dobbiamo credere, a parte queste frasi vuote, no? Credere nel sì per il futuro, queste cose qui, sembrano veramente quelli che fanno treni in autogeno, sì. Uno psicologo degli italiani, di quelli che ti fanno camminare sul carbone ardente, invece di toglierti il carbone ardente, essendo sì. Presidente del Consiglio, no, potrebbe ti convince farlo. Che si può camminare sui carboni. Si può camminare, più stioni, perché questa è la realtà, però sta in difficoltà tra non riprendere economica, questione morale enorme nel suo partito, sta in difficoltà e attacca. Però questa cosa, questa lo fornisco a Vincino. Lo fornisco a Vincino come elemento, così ci pensi. Sì. Poi durante il traffico mi dai poi un parere. Il procuratore che regge la procura di Lodi, Sara Mantovani, facente funzioni. Madonna mia. Perturbativa d'asta, una facente cosa, funzioni, una cosetta di niente, è no. Sposata, è sposata Vincino con uno che siede al CSM. Allora quindi no, questo era un facente funzioni con molto più potere reale, assolutamente. Il vero errore di Renzi è non aver fatto la riforma della magistratura e della giustizia al primo punto. Lo sapevo, Vincino, su questo basta schiacciare il bottone, e parte all'attacco. Siamo andati d'accordo fino adesso, condividevo anche parzialmente le cose dispiace. Che diceva era Luisella, ma lo so, è colpa mia, Luisella, l'ho provocato, è come dire. Adesso facciamo un'altra prova, Vincino, guarda. Movimento 5 Stelle. Ma che sia la cosa più opaca e nepotista, come dire, non è che c'è alcun dubbio, a Reggio Pelle quello è giusto, no? È un movimento in cui il potere là dentro non è contendibile, cioè ecco. Renzi, da nulla che era, arriva, contende il potere, perde, attacca e acchiappa. Ecco. Perché il PD è contendibile, il Movimento 5 Stelle no. Ecco. Cioè, c'è il grillo che ti depenna, anche Di Maio domani sarà depennato perché spende 6.000 euro al mese in cancelleria. Come dire, ma è una cosa cioè nell'epoca online, dell'online, dove si fa tutto quello in cancelleria. Tempera, matite, vabbè, niente, l'ho scatenato. Carte. Fermati che c'è il traffico, sennò poi ti metti nei guai. Tra poco. Ci facciamo i chilometri, superiamo gli ostacoli del traffico. Traffico. Caro Milan, tocchi la magistratura e muori. Le donne non fanno incidenti perché con la loro prudenza le fanno fare agli altri. Qualcuno dica a Di Battista e agli altri grillini che immunità non vuol dire impunità. Vincino, vai a lavorare, va. Braccia rubata all'agricoltura. Ma nella vigna devi andare a lavorare. Dai Vincino, comincia a preparare la vignetta con Roma governata dal Movimento 5 Stelle. Ma che bello è. Caro Vincino, te li attiri un po' così i nostri ascoltatori. Pensa, ha detto alla vigna. Io quando avevo 6 anni mio nonno aveva una piccola, un cascinotto, sì. e facevo la vendemmia, io messo là a tagliare con la forbice e mi mangiavo tutta l'uva che... Eccolo lì, l'anarchico Vincino. E Luisella Costamagna che scrive sul Fatto Quotidiano. Luisella, io sai che stamattina ho dovuto leggerla 7 volte questa dichiarazione. Il sindaco di Lodi pare che abbia messo tutto, ha detto sì, ho messo tutto, certo. Sì, è vero, ma l'ho fatto per il bene della città. L'ho dovuta rileggere 15 volte. Come l'ho fatto per non il bene? Non lo fa per piacere mio, ma per far piacere a Dio. No, l'ho fatto per il bene della città. Ci sono due elementi carini, perché adesso dice l'ho fatto per... Torniamo a... Non ho rubato per me, ho rubato per il partito, dopodiché uno ha rubato. Nel suo caso è turbativa tasta, ammette, ma nelle stesse intercettazioni aveva ammesso, perché aveva detto sono stato un coglione, quindi vedi come le due cose si possono leggere in modi diversi. Però mi colpisce che c'è stata una difesa, c'erano prove schiaccianti, sono uscite le intercettazioni, la dinamica dell'inchiesta, c'erano prove schiaccianti, e l'altra sera, martedì sera, ho visto Bersani anche a Ballarò che diceva io non ci credo, che faceva un po' era un ex bersaniano, prove schiaccianti, ma al PD adesso ho sentito questa cosa del CSM che trovo ridicola, no, del procuratore. parliamo del CSM che ieri ha chiesto di il consigliere sì, Fanfani, del Partito Democratico. Fanfani. Il nipotissimo a proposito Forlani, come, no, perché del Movimento come si chiama? Forlani, non Fanfani. No, Fanfani, nipotissimo Liamintore Fanfani che è nel CSM grazie al Partito Democratico, in quota Partito Democratico, al figlio che difende Pierluigi Boschi a proposito di conflitti di interesse, deve anche giudicare il procuratore Rossi che indaga su Banca Etruria, che interviene contro questo arresto che ci stava assolutamente tutto, perché vorrei spiegare anche a Vincino che gli arresti stava tutto, sono previsti, capito? Capito Vincino? Ma di dove ci stavo? Ma quale inquietudine? Vabbè, ma adesso non lo sappiamo, ma dobbiamo decidere noi. Stiamo parlando di due piscinette, stiamo parlando di due piccole piscine, come dire, stiamo parlando di lui non ha preso una lira di nessun tipo, di nessun genere. Capito, ma dobbiamo decidere 24 mattino se è legittimo un arresto, di un PM che fa la critica politica nella sua cosa, certo, una cosa è certo. Però certo io vorrei dire, io il PM vorrei deve fare il PM, va no, bene. Siccome non c'è e solo questo, secondo me modificare le gare d'appalto per favorire le ma infatti se è un reato è un reato. È un reato. Sì, ho capito, ma ci sono. Ha tradito l'alta funzione, l'incarico. Ha tradito l'alta funzione. Ma come dire? Vincino, sull'alta funzione del sindaco, Vincino stava sbroccando. Vabbè, vi devo far sentire questa. Vincino, Sicilia, terra di mafia, terra di antimafia. È il tuo amico. Lo conoscevi questo Maniaci, Pino Maniaci? Ti giuro, no, non lo conoscevo. Ma questo è questa, cioè un frutto di quell'antimafia, come dire, là dove il figlio di Ciancimino è un come dire questa antimafia così è pressappochista, sì. Pino Maniaci è considerato un eroe, attelegliato, partinico. Tu Luisella lo conoscevi insomma. No, non lo conosco, però trovo veramente schifoso anche che si metta dentro questa vicenda, che deve essere punita per quello che è, purtroppo l'antimafia, la lotta alla mafia venga completamente screditata, va il principio delle cooperative, no? Con la vicenda Buzzi c'è tanta gente che lavora seriamente nelle cooperative. No, per carità, questo sì, però questo deve insegnare una lotta seria che viene completamente screditato da vicende come queste. Lo so, il problema è che deve insegnare che come vai a sempre affidarti quando uno dice, ma per carità, io non sto dicendo che lui adesso non sia già colpevole, eccetera, però Pino Maniaci, direttore di Teleiato, che in realtà, insomma, ha avuto per esempio i cani impiccati, cosa gravissima, bruttissima, però diceva dalla mafia, in realtà probabilmente, come lui stesso dice, dal marito della sua amante. Ammazzo i cani stanotte, mi impeccò il cane, io l'ammazzo, ti giuro che l'ammazzo, Gioia. E mi siete guardi i locali impeccati, sto porco! Insomma, mi ha fatto trovare i cani impiccati, e poi dice però... L'ammazzo oggi non bua. Ora ne esce, è un atto intimidatorio a Pino Maniaci, ora ascoltamelo. Esce, cioè dico che è un atto intimidatorio a Pino Maniaci, mi danno la scorta. E poi ha fatto così, perché è andato in giro a dire la mafia mi minaccia, ma ha ucciso i cani, eccetera. Vincino, non lo so, dobbiamo tirare una morale da questo, no, passiamo. Sì, no, come dire. Teniamo l'antimafia, seria. Ma seria, ma come fai a riconoscerla? Questo è il punto. La riconosciamo, infatti lui viene. Come fare a riconoscerla? Questo è Vincino, tu la riconosci? Cioè, come dire, l'antimafia seria. Antimafia seria, come dire, cioè, Pino Maniaci era uno che era considerato un'antimafia seria, no? Come cosa? L'antimafia ha raccolto la qualsiasi, in un certo senso. Però cavatela sempre come dici no, tu, ma tanto è ripartito. Il problema vero lo sai qual è? È che in Sicilia ancora, in provincia di Palermo, nei quartieri periferici di Palermo, nei paesi intorno a Palermo, la mafia è egemone, è forte, è cosa, non è come dire, perché in realtà è un processo lento, difficile, ma... No, ma è chiaro, però cavatela dicendo, vabbè, ma sarà nato a Catania, Vincino. Sarà nato a Catania, Maniaci. Risolto tutta la cavi così.